veramente molto molto bello, ed è stile Ruiz, tant'è vero che lo stile è quello, però c'è un altro nome, sempre di un'altra casa di macchine. Scusate, Vintage, ho sentito, ma avete chiamato? Sì, siamo qua, Vintage, sì, sono qua, con Vintage 574, sì. No, perché ho sentito Vintage, mi sono acceso nel radio da sole, così, subito, immediatamente. Ciao a tutti, buonasera. Fatto cosa? E Vintage si accende immediatamente, non pronunciate queste parole, che si accendono nel radio da sole. Marco, ho attaccato, sì. Attaccata che cosa? Non c'è sopra. Sto utilizzando un Argus 5000 DX, perché non va bene, già. Non è chiaro la radio, Marco, è un po' sacco, comunque non ha senso. Già, questa è con la CME, con la CME. Vediamo un po'. La regolazione. No, Marco, sei saturissimo. Solleva. È molto quasi incomprensibile la modulazione, quasi incomprensibile. L'Argus 5000 DX l'ho avuto, l'avevo dato, non mi ricordo a chi. No, io sto andando col Midland base 78574 MB+5, 5 watt. Avanti Anto. È l'Argus che ti volevo dire l'altra volta, quello che ci aveva Mario Massel o Claudio. Sì, infatti l'ho dato a Mario Masseri io, quello che c'aveva lui, l'ho dato io quando mi ha aiutato lui e Franco a fare il trasloco da Via Pascoli a qua di nuovo, capito? Volevo pagarli e non volevano niente, e allora avevo regalato l'Argus a Mario e a Franco, non mi ricordo cos'è che gli avevo dato, boh, non mi ricordo. È bellissimo, sì, molto bello, molto bello. L'Argus 5000 DX. Sì, il funzionamento era anche molto molto interessante, molto bello, simile a questa, così, bella modulazione, bella corposa. Solo che poi Mario, mi ricordo che fine gli ha fatto fare. Marco! Provate a cambiare il microfono, perché tutto qui è troppo da fare. Quell'Argus era di Gianni. Ricordo che questa cosa, se non ricordo male, ma mi pare mi avesse raccontato un tempo qua. Questo è un altro microfono da palmo, non so se va meglio o peggio, com'è? Cappa, mi sentite? Sì, un attimo. Ogni tanto strappa, Marco, però va meglio come modulazione, va meglio, però ogni tanto strappa. Vabbè, ciao, abbia... La radio, tra l'altro avevo portato un video come te di questa radio, perché avevo fatto un lavoro ma veramente bene, restauro con le barocche quadrate, restauro il frontale. C'era il video dove si vedeva tutti i cosi, quando lo prendo in scena e poi come è avvenuto, che adesso è passato e portato. Va bene, come è passato. L'antenna Popolo che volevo parlare, avanti Popolo con la buonasera, Marco. Capo, buonasera Marco. Ma ti sento così saturo, ma sei attaccato con l'amplificatore o sei normale? No. La radio vecchia. bassa frequenza. Ma è cambiato qualcosa nella tua? No, sei di nuovo saturata, è di nuovo sacco. Prova a muoverlo, vediamo un po', da destra a sinistra, vediamo un po'. Perché pare che tu stava. Quasi niente, Marco. Io adesso sto usando il gemello di quello che avevo dato a te, non so se ce l'hai ancora, non mi ricordo se era il Polmar 294, c'era un Inuit 294, questo è impeccabile, nuovo, proprio tramite Gianni Capri mi ha procurato il frontalino, perché non aveva le scritte, nuovo, ed l'ho fatto sostituire da Luca Flipper, nuovo, è sempre MB+5, ma escono tutti bene, escono benissimo. Ce l'hai ancora quel Polmar celeste? Cos'era, Polmar o Inuit, quello che avevo dato io? Aspetta che va. Marco, se lo sposti troppo vai fuori frequenza, è un problema della... Sì, scusa, sono... è il 50-24, è il Polmar 50-24, sì. Mentre io ho il gemello di quello, però che è Inuit 294. Ok, sì, vanno molto bene queste radio, 23 canali, mentre il Midland invece è 78-574, quello è 40 canali, con le bande laterali, base sempre, molto molto bella anche quella lì. Va bene, avanti bombolo. Capa, no, già va bene già, comunque. Come ti sto arrivando io lì, o Marco, lì, dalle parti tue? Zoghi, a che vuole toccare 5124? Infatti c'è la stessa sigla, 5124 lo fa la Zodiac, lo stesso il toccai, quindi sono uguali, solo che quella è base, anche il colore del toccai celeste va molto bene. Io ho il gemello, che però è Inuit, sono tutti uguali, Inuit, Zodiac, Polmar, sono tutte e tre basi uguali, stesso frontale, stessa cosa. Questo che ho io, l'Inuit, c'ha il Mickey Game, mi pare quello tuo non ce l'abbia, qualche altro non ce l'ha, comunque sono lì, dai, è nuovo anche questo, ma vanno bene, lo sto usando adesso, questo è un altro, il 294 Inuit, sempre con l'MB+5. Avanti Gianni. Ehi, Marco, fallo scaldare con la fricchia, vai riscaldando, si riprende. Yeah. Conte, sì, ci sono andato qualche volta a vedere. Ma perché Marco non hai fatto il sistema, l'ho fatto io, c'è cioè gli HF da una parte e il vintage su un'altra base con commutazione, cioè io ho fatto fare un quadretto sotto dove sono tutte le prese attaccate, attacco l'interruttore lì del quadretto e si accendono tutte. Poi se voglio commutare l'antenna la commuto da una scrivania all'altra praticamente, capito? Per poterlo usare, per non stare sempre staccando, rifacendo. Anche tu c'hai quel sistema, tu sta cambiando il radio, riprendi anche tu. Sicuramente, anche lui avrà quel sistema lì, non lo so. Vedi. Che attesa c'è la radio? Che guascio quel sciocco, guarda che ci me la scende una scintilla ancora. Era vero, vende un macello, lo vende attaccando la radio. Anto, stai attento, fatti un sistema di commutazione. Guarda, io sono rinato, non ho più problemi, ho messo due commutatori buoni. Quello che ho comprato su internet e l'ho buttato dentro l'armadio, due commutatori buoni e mi commuto l'antenna da una base all'altra. I vintage sono sempre tutti accesi, ok, poi sono anche valvolari, quindi devono rimanere accesi. È tutto separato. Se vuoi avere un bel impianto che non ti crei problemi, devi fare così, perché sta che attacca l'antenna, stacca un alimentatore, l'attacchi nell'altro, è un casino. È un casino, prima o poi ti si stacca sempre qualche filo e vai fuori di testa. Vediamo un po', ci riprende Marco. Sì, eccomi qua. Con questo come va? Sì, una turbinetta. Questo si chiama Ward 702, è Montgomery, proprio come la giacca Montgomery. È molto carino, c'ha lo strumento centrale azzurrino, bellino, sempre con questi orologi digitali, un base di quelli grandi, tutto cromato, bello, bello, bello. Funziona bene questo qua? Meglio dell'altro, sì, va bene. Ho detto, ma anche tu non hai fatto quel sistema che ho fatto io, praticamente hai separato i vintage con commutazione a parte, alimentazione a parte. Beh, io qua ho una stanza con tutta un'ala dedicata alle apparecchiature rilevatoriali, con dove c'è un ambaradan da paura, e dall'altro lato è ancora in costruzione, perché qui ci andrà il sistema dell'azienda mia che commercializzerò, che si chiama Montershack, dove tutte le radio andranno dentro questi elementi strutturali Montershack, con le commutazioni, ma saranno tutte collegate con il sistema di commutazione che devo far realizzare con i microfoni, eccetera, eccetera, una cosa molto particolare che sarà per la parte posteriore tutta dedicata alle radio vintage al momento. Se sono delle scrivanie, le apparecchiature si chiamate sopra e i crowd, perché sono tanti altri lavori che sto facendo qua dalla radio. E la modulazione è meglio, perciò dico sono qua, vero? Alla grande. Sì, va bene come stai facendo, certo. No, beh, io ho sempre la solita stanza che conosci, però ho realizzato due basi dove su una base mi sono messo gli HF, e anche se non c'ho più niente, però vabbè, ci sono due, tre HF, e dall'altra parte ci sono tutti i microfoni in fila con tutte le radio, l'hai visto, c'è una base diversa dove commuto l'antenna della 27, la posso commutare da una scrivania all'altra, capito? Mentre il dipolo, che è l'unico rimasto, quello è collegato diretto su un HF e basta. Va bene, il cambio per Gianni, a te Gianni. Ehi Marco, adesso con questa radio vai molto bene, dai. La radio è chiara, limpida, recuaro. Vabbè, invece c'è questo problema con l'alimentazione. Devo cercare di risolverlo, perché quando parlo sembra che ci sia un ritorno di radiofrequenza, sento come se parlassi dentro l'alimentatore, però... io c'ho piccolina la stazione radio, e cosa vuoi fare? Purtroppo sono limitato. Però lo sai cos'è? Adesso che è inverno, io sto bene qua su, quindi mi piace qua su, mi piace. Ehi, ehi. Ma è un bel tanto la radio, ti sei più forte di stasera. No, è sempre così, perché? No, mi sembra più forte la radio. Non lo so, no, già. Ho sempre parlato più vicino, boh. In principio è appoggiato il microfono, più vicino non ci posso parlare, perché c'ho il letto qua e la radio qua, capito? Oh, vabbè, e allora perché sono in cuffia ti sento più potente. E questa come va invece di radio? Vediamo un po', qua c'è già un microfono da tavola. Ma non è, la radio è normale, non sta amplificando, vediamo un pochino, questo è un Turner, vediamo, batteria, chissà batteria che tratto è, però si può un po' aumentare, vediamo un po', aumentando così, è aumentato un po', ok, dai, vediamo, allora mettiamo così a 5, da 0 a 10 e 5, è anche forte adesso, Sì, adesso va bene, solo che gracchia un po' di manutenzione a questi microfoni, Marco. Beh, ovviamente bisogna farli funzionare quando stanno fermi tutto questo tempo, tutte le parti che sono sottoposte a contatto hanno bisogno di un po' di attività, perché ovviamente rimanendo ferme un po' di patina si crea ed ecco che il contatto non è come avviene normalmente in occasione di un uso continuativo. Questo è un V40 canali, c'è anche le bande laterali, va anche su, americano, si chiama 747, se non ricordo male, si chiama tipo il Boeing. Ma cos'è, della Midland? No, della Realistic è questo. Ah, Realistic, sì. No, io sono passato di nuovo con questo, con 574 della Midland, base, molto bello, 40 canali, anche questo c'ha le bande laterali, però non ha l'FM. Ed è anche abbastanza centrato, perché l'altro giorno stavo provando in banda laterale con un HF ed ero, non ho mosso manco il clarifer, bello pieno. Va bene, dai, che sta per arrivare il corriere qua con la roba da mangiare, quindi io vi saluto e vi auguro buona cena a tutti, buon fine domenica, ciao Marco, ciao Antonio, ciao Gianni e chiunque fosse in ascolto. Claudio Spagliero chiude le trasmissioni, a domani, vai già. Ciao Claudio, buona carica, buona fare, io l'ho già fatto, avanti là. Questelle, ok, ciao Cla, ci sentiamo. 8:30, anche io stacco, vado giù, lascio acceso questo qui, anche questo lo faccio scaldare per un po', e più tardi magari provo a salire a vedere se va bene, ma riascoltando mi sembra che stia andando molto meglio, piano piano si sveglia anche lui. Va bene, ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Antonio, ciao chiunque in ascolto, Marco Scorpio, QRT, buona cena a tutti, ciao ciao. Ciao Marco, ti saluto anch'io. Avanti Antonio. Cappa, ciao Marco, c'è la gannunata ai noghi. Ciao Cacate Claudio e a tutti, ce la risentiamo. Ok. Ciao ciao. Il più basso sono io di qua, di gira a gira. Sì, così è. Sei basso perché ti sei coricato. No, non sono coricato. Marco, portami immediatamente stato un eco, così almeno ci metto quel microfono che avevo prima, così te lo copri di nuovo. E siamo a posto. Cosa mi ha messo? A Marco, stavo dicendo. E da poi mi è stato un eco, così me lo esco forte come prima, poi viene e me lo riprende di nuovo. Ma che è stato un eco, Gli avevo dato io a Marco. Tu perché lei, anche io mi ricordo che ce l'ho, era Spugio e il mio c'era, gli ho messo la spugnetta davanti. Gli ho dato sì, perché lui mi ha... sei fidanzato con me, infatti, capite, me tu dici, amore, dice, dammi il Saturnecco, vengo, me lo prendo subito, domani mattina, domani sera, mi ha detto. E infatti che è venuto, si era ritirato, e cosa devo fare, secondo te? Per amore questo è altro. Boh, non sapevo che avessi di queste tendenze. Grazie a Dio usciva bene il Saturnecco, quello che avevo io. Tutto va bene. Questo è Saturnecco, questo usa adesso è Saturnecco. No, lo sanno il 3009 la verità, cioè il 4000 per esattezza. Ti metto la portante e ti faccio schiattare, yeah. Ah, così fai, e io ti metto l'ecco, così tu impari, bello bene, capito? Così impari, visto è tutto l'ecco adesso. Ma l'inchio a sta cosa? Esce bene, visto che sei contento adesso. Sono contento anche io, la verità. Ieri sera stavi schiattando dal malumore, adesso meglio stasera sei contento, grazie a Dio. Cappa, mi dà fastidio, per avvegliata cosa va, però non spera che c'ha radio. Cioè, non andava mica tanto bene. E vabbè, comunque sia, non ci sono niente, ho detto anche io ieri. Tranquillo, non ti preoccupare, è una cazzata, tu no! In realtà ti sei proprio spaventato, va? Comunque se adesso va bene, grazie a Dio, però sono contento per te, va? Ti ho accontentato, almeno quello sì, tranquillo adesso. Cappa, ma adesso sono contento. Aspetta che mi sto ascoltando un messaggio che mi hanno mandato, ti riprendo subito. Due secondi. Te faccio schiatta. Vabbè, d'accordo, non c'è problema. Ecco come non c'è problema. Vabbè già. E no, figlio. Ehi, andi a pompetta. Lo faccio schiatta, lo faccio. Stanno facendo anche birretta. Tanto lascia stare i miondi. Lo so. Comunque sono un bel contento, sto la verità, cavolo. Spinge proprio bene, spinge questa radio. Ma se non è, non abbiamo fatto aumentare la modulazione, Tino, quella radio lì. Chi? Non era di Tino quello. E che ne so se era di Tino? Ah, non lo so. Io mi ricordo che pensavo che fosse quella di Tino, ho sbagliato un po'. Non ne sono, io non sono andato a Tino. Ah, sì, vabbè. Comunque diciamo che la modulazione è aumentata, forse. Sì, questa era di Antonello, era basta. C'è anche i finali cambiati qua. Ah, di Antonello era. E allora di chi vuoi che sia? Era la sua, era questa radio già. Salvando subito, 2 minuti, Ehi, ok, non ti preoccupare. D'accordo, saranno come la storia anticoso, antiblocco di stomaco, no, anticovid, 2 minuti, sta arrivando subito. Ah, ti ho compreso, cosa fai, un covid? No, blocco di stomaco per Simona più che altro, no, per me. Facendo il jet, 2 minuti, no, arrivo subito. Mi prendi con Luca. Gappa, gappa. E quindi, no, era di Alessio questa, capito, non era, chi ti ha detto che era di Tino? Cappa, ah, cannonata, Ehi, già va bene. Cappa, però adesso mi vuoi attaccare un po' l'altra, perché se tocca c'hai in piedi, col microfono a tavola, invece col microfono a palmo mi si goku. Sto sdraiato, capito? Piace tutte le possibilità qua. No, due la palmo e uno la passa. Devo avvicinarci pure io, però devo attaccarlo. No, io ci devo attaccare, ce la posso fare male. Spero un attimo già che l'attacco. 2 secondi. Sì. raggio schiattati, faccio cillocci di fuori. Canne, ci sei. Già, dopo esempio. Sì, ci sono, ci sono. Ti senti, sì. Ti sento, però al telefono, vai. Potevo parlare. Kappa, vai. Adesso questo è 550, a me ci arriva anche. Posso stare un po' sdraiato, posso stare. E non è che c'è molta differenza tra questo e quello. Vero. Pop out e due. Se invece a me è continuo. Chiappa, ma pure questa cosa. Se posso aprire. Arricallo, se posso aprire. Chi è che ci ha posto a aprire? Ma ha mandato, se posso aprire. Per te per un cammino da resto. Ci ha mandato quel delinquente di Gianfranco. Gianfranco chi? Sì, a un bollocci, è andato pure la macchina. Però io lo chiamo Pirino la peste. Sì, quando era più giovane, già lo sai cosa combinava. Se ne ha combinato tutti i curoni. Già lo so, ha un carattere molto... è sempre stato così movimentato. Lui era già raccontato fra Gianfranco. Usciamo insieme. È buona era questa famiglia. Era buona, sì. E ne ho mangiato parecchie volte con la famiglia. Ero pure stufo di mangiare. Perché l'ultima attività che faceva la faceva per lui e gli dava anche un po' ai cani che ci aveva giù a, a Feroce. È venuto da poco mia casa. Già lo so, già. E lui ha percorso sardo, però mi stava accennando che aveva trovato di meglio pure. Vabbè, non è convidato. Sì, l'ho detto anche a me. No, oh, vabbè, non è che sono convidente, però me l'ha messo accennando. E che c'ha delle buone prospettive di lavoro, eh? Sì. Ma lo stava accennando. Non per lui. Aspetta, ma chi da via di Roma? Pasticceria, bar, fai lì. C'aveva anche il locale a Stintino, la gelateria. È un capodanno, cosa vuoi fare? No, ma non lo so cosa sia successo di preciso, non ci voglio mettere in lingua perché magari ha avuto sfortuna. Te l'ha giudito, è un capodanno, per carità. Già lo so qui, non ti preoccupare, già me l'ho mezzo raccontato. Però non c'aveva la testa, purtroppo, non c'aveva la testa, se no, a quest'ora, a quest'ora non sarebbe stato ancora lavorato, ma secondo me no, sarebbe voluto anche disfare. No, c'aveva la madre che era malata, doveva pulire la madre, tu non lo sai, ma io sì. Ma stai scherzando che non lo so io. Cioè, sì che è tutta una vita di donicipo. Ma è un po' colpa sua pure. La verità. Cioè, sì che ci conosce, a me mi conosceva quando sono nato. Mia la madre era madrina il padre era mio padrino, vuoi che non sappia le cose? Lo so, tua madre lavorava in pasticceria da loro, io me la ricordo quando lavorava. Se lo so presente, purtroppo la colpa è la sua. Non lo so, qui hanno mi ha detto che se è morta la madre ha dovuto mollare in tutto. Così la racconta lui, ma le cose non sono andate esattamente così. Io mi auguro per lui che tu vi lavoro migliore che si sisti. Ma chi loro è la sorella non travagliava a rubare, finalmente. E io, non è la che quella che è morta. No, quella è Silvana. Ce n'era una perché era fidanzata con quello che lavorava Francesca Marcos. O Marco. E poi Lorella è con Piero, Chiaro Gunnocci tu. Sì, riconosco. Io andavo sia al bar, sia dentro la pasticceria, ho visto il padre faccia delle uova di Pasqua. Bravo, era signor Mario. Bravo, padrino, era facendo quelle cose, era un artista, era. Ci aveva messo un anello d'oro dentro l'uovo di Pasqua, perché era un fidanzato che lo stava regalando alla fidanzata, ci aveva fatto l'anello d'oro e come sorpresa gli ha messo l'anello e poi l'ha chiuso. No, andava, mica chissà niente ha girato di davvero. Ha girato un sacco di soldi, ma soldi però me. Da voi, bravo. È andato tutto in marola. Da lì l'avevano fatto uscire perché avevano costruito qualche malato, poi lui si era messo, si era fatto che sembra un'altra pasticceria. Allora da lì lui l'hanno se ne è voluto andare, che era una guerra quanto ho capito. Niente che non pagava, ecco, c'era un sacco di geramenti. Però io dico sempre una cosa, tu vuoi prodotto, mi dai i soldi, pigliati in nabbe, cioè non sai in chi via. Quello un sacco di geramenti vedane. Chi lo sa, solo lui lo sa. Tanto solo lui. Cavagava. Ma io le voglio bene a Gianfranco con un fratello. Sì, ma le voglio bene anch'io, però diciamo che io so com'è, io lo so bene, ha commesso troppo imprudente, troppo imprudente, doveva stare più attento. Vabbè, la vita tutti sbagliano, pensate che si risollevino persone, poi tutti fanno degli sbagli e sono morti a distanza di pochi giorni da padre e figlia. Sì, lo so, ha finito il tumore e poi si è ammalata la mamma. Sì, dopo qualche anno dopo si è ammalata la mamma. Dio mio. Mia madre lavorava e viveva con loro prima di sposarsi con babbo. Era come se l'avessero pigliata, siccome i genitori sa, non potevano più tenerla, cioè come ti figlio la Dani, mamma. Lavorava lì, lavorava da mattina a sera, gli attingo pure queste cose, e lei viveva lì con loro, capito? Per qualche anno ho vissuto con loro. Ecco, la figlia adottiva. Sì, poche parole, sì. Ho capito. Sì. Vabbè, con Gianfranco, che adesso aveva la Citroen prima, la BSX, andavamo in giro sempre, con i cani, con tutto gatto, sempre in girella eravamo. Sì, ho giù, via. A me mi è sigapa al bar. Quella che ti chiamava nel zarretto, gli diceva, diri zarretto, e poi si arrabbiava. Ah, però è mio paucuro! Già me l'avevo raccontato, sì. Raccontatela. Che sciuga. Che andava a stigare. Sì, così. E una volta col cognato, non so se te l'ha raccontato, è successo una mezza brea, ero piccolino, però per colpa di Gianfranco poi si è messo lui in mezzo, con Uccio, già conosce Uccio, si è messo lui in mezzo a separarmi, perché giustamente ero anche minore, ero piccolo. Ma chi cosa ha visto, Gianfranco? No, ero un po' che sto spottendo, vero? Grazie a Edo mi si è portato c'è qualche rivista il fratello. Il fratello c'è un vero confidenza, però con le sorelle sì. Il fratello lo conoscevo, però mi pare che adesso porta il pane, fratello. Si è licenziato, Luciano lavorava a Calvia. Ha licenziato, sì. E non lo so cosa c'è il stesso. Oh, yeah. Un casino, la vita è un casino. Vai, non resta da restare. Lo so. Però già stato di me, ma non è che... Uccio, cioè, la volta... Ma tu già lo conosci, quello che lavorava in testa urbana lì, che guida il camion. Già lo conosci tu forse, il cognato. Buono, non me ne metto più, ricordo. Cosa mi ammetto? Sono passati un po' di anni, sono passati 40 anni. Allora Gianfranco era come la Cruce Uno. Poi ci frequentava, uscivamo insieme tutto quanto. Non ti preoccupare, a me lo conosco benissimo, lo conosco, e poi il Gabbo adesso si è calmato molto, da e lì abitava, mia latte dolce abitava il cognato, dove andavate a prendere i cani di botta. Ah, ho capito, c'è i cani dentro la serata di un garage con la rete, c'era la rete per non passare. E io sono cognato, praticamente è il marito della sorella, una delle più grandi, da. Io due ne conosco sorelle, quelle che stavano al bar tutti e due, poi le altre perché? Ma è Antonietta, la più manna. Ah no, quella non la conosco, io conoscevo quella che stavano al bar, il fratello, No, no, già c'è una sorella più grande, già. Ehi. Lo so, io volevo assai, no, a farlo, no. però lì in proporzione sta bene in campagna, se si chiude il petto può pure arrucchire, fa che le rompe le scatole in chive. Poi mettere anche l'altro nel baracchino, così l'ho pubblicato per tutti. Mamma mia, hanno rifatto il baracchino. Che non è più casino che faccio? No, lascia perdere. Non c'è, non c'è. La capisci. Aia. Vabbè. Fili non ha messo, l'ho chiamato. Allora, avanti che qualcuno esce e dice in capo in chimica che va per un video feo, va. Ma bisogna di pulire la portata da calignare il bosco. Lui dice c'aveva in macchina, c'aveva il chimico. C'aveva un chimico in macchina. Io lo so già. Forse non è, era il coso, è il ricevitore forse. No, no, era ricevitore e trasmettitore, solo che lui staccava il microfono e lo usava come se fosse una radio, lo sintonizzava sul coso della radio normale, in FM. Ma non facesse affare, lui quando lui attaccava il microfono e modulava. Sì, quello lì mi fa e ce l'avevamo noi, ce l'avevamo dopo, l'aveva venduto a babbo. Ah, però non ce l'ha più. Sì, vecchio era, ho dato per tanti anni e poi si è bruciato. Ma un ricevitore serio, vero però, Sì, ma era anche trasmettitore quello che ti sto dicendo io, sarà un altro quello che c'aveva lui, te lo ripeto, ti staccava il microfono, mi attaccava, visto che quello fare per tappare il buco del microfono. Attaccava quello lì e gli metteva in FM, ce lo fermava, ma non era di FM quello. Già lo so già cosa tu combinava. Mi pare che comunque a lui gliene ha venduto uno, bello piccolare, ma bello però me. L'ho avuto per tanti anni e poi c'è bruciato, è andata male, dai. Questo che stai dicendo era un chimico. In modo che in modo proprio. E allora isso, è proprio isso. Sono sempre piaciute queste cose, anche i cani sono sempre piaciute Gianfranco. Le ha addestrati lui, mi ha addestrato. Già lo so già. No, è sempre stato fissato il figlio. Io me lo ricordo, come se fosse oggi. Ero andata anche l'inaugurazione quando avevano fatto il negozio a Stintino, le avevo portato anche una pianta. Già! Al Punta Negra lì, alla pasticceria, ma penso che spero ce l'abbia qualcuno, l'abbia venduta a qualcuno, perché mi pare che esiste ancora. Non lo so che fine hanno fatto tutti i negozi, se li hanno venduti, se li hanno pagati per andare via da quel palazzo. No, quello lì non c'è più niente, hanno costruito il palazzo nuovo. Però abitavano sulla pasticceria blu. Ma che non lo so, perché non lo so io. Già ci andavo quando ero piccolo. Beh, e io chiuso una volta passata a casa Gianfranco, figurati. Il padre mi piccolò, la madre era di Port-Autores. Di Sentino era, della Speranza. Ma di Sentino era, e come faceva parecchio a Port-Autores. Pare di sì, Madrina è di Centino era, della sentiera, là, di quel posto lì, cioè va a fare di lì, però non mi ricordo altro, la verità. Io come si ripeta lui, padre e la madre, li conosco, li ho conosciuti e c'è il Brissi, la mamma somigliava a Gianfranco. Sì, sì, anche non lo so. E anche a una delle sorelle, adesso non so se sia la piccola forse, la piccola. Sì, sì, la più piccola è Stefana, quella che è morta, purtroppo. È una disgrazia che non è bello quello che è successo. Perché in effetti era Edda che travagliava in pasticceria. E anche al bar lavorava. Il bar più che altro c'era Lorella, c'era. Però anni addietro c'era mia madre con Lorella, lavorava. Forse anche un po' Silvana, ma di meno. Ok. bei tempi, ero giovane allora. Sai quante volte io l'ho visto facendo la fede a Gianfranco, ma andavo dietro dove faceva la fede, come è quasi entrata lì. L'ho visto mille volte facendo la fede, la faceva lui. Già lo so, già, poi lavorava, la facevo lavorare molto in pasticceria, dopo il bar, anche a mamma faceva in pasticceria, ma di guru già fatto, può farà bene, ragazzi. E c'erano i biasini, tutti i canti di bombettone, lo comparava quando era più giovane. Ha tappi di azzurrato, ma ripari a un missile. Era più della pesca, che cambiava tutti i colori. Non so, già. Ha detto che allora c'era, dove teneva la legna fuori. Ha serrato la porta, ha fatto chissà cosa. Cattognato. Ma io poi sono venuto in collegio la notte. Collegio te la butto? È un periodo, sì. E poi il capo, vedi. Ehi, era più di una festa, è come la mettiti i colori. Ma come già era tranquillo, stava sempre scazziata, però già era tranquillo. A tanti anni fa, era l'inizio, ma si gode, era in prima fila. Cosa dicevi tu? Sì. Te ne hai raccolto che già combinato la croce blu, usava l'antenna vuota per la croce blu. E parlava con i punti. Sì, io lo so, e allora non me la mi pare che aveva un tipo di radio che entrava puro, perché allora erano diverse tecnologie. E uno ha detto burrodone, qualche cosa del genere. Sì, si ascoltavano le telefonate, c'era una cuffia, ce l'ho io davanti. Ha detto bucaccioni. Ehi, se te l'avevo raccontato. Ehi, perché stavano a parlare di cose intime, no? E lui ha detto, cos'è voglia di pizza? E lì, no? Ho voglia? E lui ha detto, guarda bucaccione, e lì, chi è questo qua? Disgraziato, tutti ed da pure a papa che si cose strane. La via di tanti sergigini puro, fa cucciare i bastoni così, questi microfoni strani. Ah, le spie, quelle per ascoltare la gente che c'è vicino a macchina e cose. E me ne aveva dato uno, me ne aveva dato. E gli avevo il coro al quadrato. Mamma mia. Tutti erano la ciafava. Le spie erano. Le spie. Sì, sì, quella fare che a distanza così che si passa con la gente che fa vedere. Cioè tu per dire, vuoi ascoltare che due ragazze se lo parlano in macchina, ti metti vicino, attacchi con la gente e senti tutto quello che dico. E io manco del genere. Sì, sì, sì, è così. Ma non ricordo, sì. Ma mi ha detto che era stato ingegnoso di che si così, ingegno di via zia. Poi in testa. Ah, ma adesso si è calmato molto, sì. È più un pochettino più responsabile. Anni fa era una guerra, era. Sì, è cresciuto, esatto. Non rimaniamo sempre bambini, no? Solo che c'è chi è più calmo da ragazzi, che anche tu non devi essere tanto masito. Sì, mi sono calmato adesso, prima mi diceva una cosa sbagliata. E te ne combinava, ti combinava che cosa? Io mi ricordo solo una volta che sono venuto a portare un apparecchio. E tu te riprendi con il tuo petto di... già me lo ricordo già. A chi mi aveva fatto la vicina, tanto la cosa bandicciata. A far rendita. Allora cavami con me, mi rispetta. Però... vabbè. Come stavo dicendo, ti vuoi accudire da Giovin Mando io, non te lo ricordi, anche un altro tappo, la tua madre non ha fatto l'allato, da Giovin Mando da qui si è bisogno spisato a Budui. Dopo è succedente, e poi abbiamo brigato a te che avevamo fatto la vicina da Rubacone. E allora fumavo, mi pare. Io fumavi sì, adesso lo fumi. Ah, Marco, mamma, compare idea, non mi interessa. Sono 15 anni comincia a sentire studi, se ma trovare il cancro ai polmoni, chitarre già male, il cancro ai polmoni, a lui. Alla fine dici, basta. No, no, già non mi lasciate più nulla a me. No, fa sigaretta, no. Ah, secondo me sono quasi 15 anni che non fumo più. Oh, ho perso anche il conto, no, non mi interessa. Anche io so forse. Anche io sono così, sono forse anche di più. Prima andavo a pescare anche due pacchetti nel partito, ok? Lanciamo ma ce ne vuole la sigaretta. Lanciamo ma ce ne vuole la sigaretta. Sono cose, guarda, ci sono cose più belle, ci sono. Della sigaretta, già. Se... Se è bel tempo, c'è il mare che è più bello della sigaretta. Preferisco comprare un paio di biglietti del tram per scendere giù. E passando una bella giornata che compro un pacco di sigarette. La cosa semplice. Sì, ma infatti qui se ci pensi, l'altro che fai, butti fumo dentro e poi lo butti fuori, che cacchio di cosa è? Boh, è proprio una cazzata, è un vizio proprio. Secondo me che lo fai, si buona a botte. Sì, come quello, quel principe, voglio riuscire, te lo ricordi, non è fatto. Ma già l'hanno liato via le iene a chi sotto, non la sapevo quella storia, che l'hanno liato nel letto e non lo facevano fumare più. E io, il compagno di Matteo, dove trovi le sigarette, che si fai faccia due agli anni? L'esaurimento sta bene, voglio le sigarette, portatemele qui subito. E poi la fai scendere agli anni. L'ho mandato via, mi ce l'ha anche questo grande fratello, l'ho mandato via perché ha parlato male, si dà le cotte pure. Ma chi si è tutto quanto suonato? Magari non ti sei già mai subito. Ah, Filippo Nardi, il suo personaggio. Ma mi ricordo che era un altro. No, Filippo Nardi. E vabbè, vecchiato, dopo 10 anni mi pare che c'è un altro grande fratello che ha fatto lui. Che si è esaurito. Oh, io, io. Che si è tutto quanto esaurito già. Ehi, le sigarette diventano nervosi, come quando mi manca la droga, la stessa cosa. Allora mi va a dire a te, nel senso che se non c'è un po' le sigarette ti vedi parlare nervoso. Allora ho detto, oh, la devi vincere tu. No, no, basta. Ah, va, la bucaria già. Ha mollato tutto. Ti muovo a fumare. Ascolta bene. Mia sorella l'ha smesso per dire se l'accende solo a Capodanno, la sigaretta a Capodanno e qualche giorno la fumo all'estate. Però poi non è toccato più. Ha detto, ma la devi tutto, cosa ti dà tutti di qua? Ma per Natale, per il coso, per Capodanno. Però poi alla fine ti piedi lungo il bici. Una cosa, vuol dire che è fumente. No, durante la mamma tocca, ma tocca solo l'estate, qualcuno ha detto che ne fuma quando va a vedere gli spettacoli, così viene l'offro, la fuma, ma non la compra se non se ne compra. Sì, ma se non vuole fumare non la fuma, punto. Cosa sta in chi vi ha tirato le ronche? No, la deve fumare e basta. Sì, poi proprio l'estate. Oh, oui. L'estate al mare quando parlano con le amiche, sai, gli offro una sigaretta, vai, se la fuma, ma una ogni tanto. Però ho detto, devi muovere del tutto. Io ero a puntaggio, non mi voglio più dire, non mi dà fastidio anche il fumare, se ci credo. No, passa come una cosa indifferente, perché no... Cioè, no, non lo senti più l'odore, non sento più niente. Passa come che sia indifferente, come che sia indifferente, no... niente capito. Poi adesso le persone che si avvicinano a me per dire che fumano mi danno fastidio l'odore che c'hanno addosso, l'odore del fumo mi dà fastidio. Ma a me mi è passato indifferente. No, a me se fumano vicino a me mi dà fastidio, anche se all'aperto che mi guardano in faccia mi rompere il male. È normale, da un fiasco. ci fumiamo una birra. Ma lo stesso modo. Che vuole entrare, avanti. Aspetta, ci fumiamo una birra. E noi? Chi è? Chi è? Ciao, buonasera a tutti e due. Qui, ciao. E cosa ti stai trincando la biondina? No, mi sto scaldando più che altro, perché c'è un freddo in camera. Aspetta, ci fumiamo una birra. Stavate parlando di fumare, quindi a un certo punto. La birra c'è fresca, non ti riscalda. C'è proprio la fredda. No, già ti riscalda, non ti preoccupare quando è calda. Ha voglia. Anche il vino, è solo lì. Lo sfumate, la scala, non ti preoccupare, fate trovare quello giusto. Amico di Bacco è adesso. Ho capito. Che sei amico di Bacco. Bacco chi? Bacco, sai che è Bacco? No. È il dio dell'alcol. Ah, vabbè, meglio di niente, già io lo sai. C'è Bacco e Tabacco. Bacco, tabacco, eccetera, eccetera, ho capito. Chi da dura la frazzurro? Tanto è. È vero, sì, me l'ho bevuta, la verità, era buona, lo sai. Quando sono entrato me l'ho bevuta. Dopo l'ho fatto naturalmente quel lavoro, non prima. Io credo che ha fatto con Orto di Sardegna. Ma buona veramente quel tipo di birra. La frazzurro, veramente buona. E vabbè, ma già ci passa anche quella di Ruspi, Antonio. No, me l'ha passata stamattina Antonio, la bottiglia, la verità, non l'ho anche usata la verità. Quindi l'ho pigliata dopo che ho finito il lavoro mio, la mattina, sono andato, cioè volevo andare a prendere l'inchiusa, la verità. Dopodiché ho visto lo spiglio aperto, infatti ho detto, scendo qua, tanto lo spiglio aperto, e così divento a casa subito con Simona, sono messo in lag, e così ho fatto stamattina. Meglio se la Sì, quello sì, ma è assillante, mamma mia, ragazzi. Non posso lasciarla sola, ti metto a fare 5 minuti, mamma mia. Perché ti metti a così, il primo ora, se ne di cosa? Ragione, mi dice Antonio, stamattina appena entrato, Antonello, ce l'hai il coso? Ce l'hai il coso? Porca miseria, ma com'è entrato, ragazzi? Assolutamente, mamma mia, che cosa, gatto, allucinante. E le robe sono tutte così, sono fatte a roba. E vabbè, ma io ho fatto il coso l'altro giorno. L'ho fatto io, per conto mio, la verità. In spontanea volontà mia. Ho fatto il tampone, grazie a Dio, negativo. Quindi sono a posto. E vabbè, lo so meno. E c'è da parecchio c'entra, perché a un certo punto con Simona non è che posso scherzare, capito? Poveraccia, lei ha avuto, lo sai, quello che ha, dei polmoni, roba del genere, è ben dedicata, capito? Infatti quando ho visto Antonio, quando è venuto avanti ieri, guai! Mettiti il coso, la mascherina, Antonio, Antonello gli ha detto, non puoi entrare.